Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Innaffiare no, dallo spazio no. Spazio no, è difficile. Ormai quasi. Però si può fare quasi tutto. Eh sì. Allora, qui a Food Lab ci siamo già occupati dell'osservare i campi agricoli dal cielo, e questa volta ci spostiamo ancora più su e andiamo nello spazio, andiamo sui satelliti tra poco. È qui con noi Mirko Boschetti, benvenuto. Un saluto a tutti. Benvenuto. Lei è ricercatore del CNR, in particolare dell'Istituto di Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente, coordina anche un progetto europeo che si chiama Hermes, di cui parleremo tra poco. Facciamo un'introduzione su in che modo i satelliti possono aiutarci qui sulla Terra a coltivare i nostri campi. E anche perché quello che noi pensiamo è che, certo, se devono monitorare le grandi foreste, sono enormi e quindi dallo spazio, ma qui invece sembra che si possa arrivare ad una definizione anche molto ristretta. Sì, la cosa interessante, forse anche per il vostro pubblico, è sapere che l'osservazione della Terra, come si chiama il telerilevamento satellitare con scopi civili e in particolare dedicato al monitoraggio dei nostri agroecosistemi, nasce proprio con l'agricoltura. Negli anni 70 gli scienziati americani riuscirono a convincere il Congresso a modificare e declassificare delle missioni militari in missioni civili, e nacque le prime missioni Landsat, in cui avevano il primo scopo, e quindi era il motivo anche per cui sono riusciti a convincere il Congresso di monitorare le produzioni in un periodo di guerra fredda, le produzioni di grano dell'ex blocco sovietico. Da allora ad oggi il salto, come citava lei prima, di scala è molto grosso, e oggi abbiamo tecnologie che consentono di dare informazioni all'interno della variabilità del campo e legarle a quelle che sono le tecnologie di precision farming. Quindi da un piccolo campo fino ovviamente a un'estensione regionale, anche quasi, insomma, territoriale molto molto più ampia. Ma quali sono le informazioni che possiamo prendere noi, diciamo, agricoltori, insomma, l'agricoltura, dai satelliti? Indubbiamente i dati satellitari hanno il grosso vantaggio del monitoraggio continuo, cioè ripetitivo e operativo, e di grandi estensioni. Oggi però siamo in una frontiera importantissima di cambiamento, e possiamo dire che come europei dobbiamo essere orgogliosi, grazie al programma Copernicus, in particolare grazie alle missioni satellitari dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Sentinelle, si riesce a coniugare due cose: avremo missioni civili per l'osservazione della Terra e per, diciamo, gli ecosistemi naturali e agricoli, che ricoprono centinaia di chilometri per ogni passaggio, con risoluzione dai 20 ai 30 metri di pixel, cioè l'unità individuabile. Abbiamo invece missioni commerciali, di satelliti commerciali, che hanno ormai risoluzioni metrico-submetriche. Ma quali sono le informazioni che noi prendiamo? Le informazioni, come dice, dipende molto dall'utilizzo. Si possono dare informazioni sul monitoraggio dello stato delle colture per grandi estensioni, e sono tipicamente informazioni che servono a un authority che ha un mandato di controllo o di poter definire degli allarmi o delle varie situazioni di difficoltà, tipicamente quello che è successo negli ultimi anni con gli stress irrigui che abbiamo avuto anche nella pianura padana. Oppure informazioni invece sullo stato nutrizionale, sulla variabilità intracampo, che dovrebbero supportare la gestione. Cioè, i due grossi mondi importanti da dare a dire a voi, ma a dire agli ascoltatori, sono il supporto al monitoraggio e il supporto alla gestione. Ci spieghi. Non si può irrigare dallo spazio, ma si possono avere le informazioni per sapere dove e quanto irrigare. Quindi mancanza d'acqua o eccesso d'acqua, ma poi anche l'altra cosa su cui poi noi lavoriamo parecchio invece è il supporto alle fertilizzazioni. E la fertilizzazione le fertilizzazioni azotate sono incriminate per certi versi come responsabili dei problemi di nitrati, dell'inquinamento, ma sono dall'altra parte anche una fondamentale azione che l'agricoltore può fare per garantire le produzioni e quindi la sostenibilità economica delle sue attività. Quindi la possibilità di dare informazioni che cerchino di ottimizzare l'uso dei fertilizzanti, quando e dove, da una parte vuol dire garantire le produzioni riducendo i costi, e dall'altra sicuramente garantire l'ambiente riducendo le emissioni in ambiente non usate dalla coltura per la sua crescita. Perché è solo uno sguardo dall'alto che può darci questa mappa di differenze dal basso con i metodi tradizionali si è molto imprecisi. Per poterlo fare con i trattori vuol dire che un trattore deve andare in campo, vuol dire che deve usare gasolio e per poterlo fare per tutti i campi di un distretto agricolo dovrebbero essere percorsi tutti i campi con i trattori. Quindi molto più rapido, insomma. La visione satellitare le dice? Sì. Sicuramente sì, il vantaggio grosso è proprio la visione sinottica, quella che viene detta, di un territorio più ampio. Ecco, Boschetti, entrando un po' nel merito, facendo proprio un esempio concreto, lei è coordinatore scientifico di questo progetto Hermes, che appunto utilizza anche i satelliti, quindi questo tipo di monitoraggio, nelle colture del riso, in Italia e anche in altri paesi europei. Se ci può raccontare appunto in che modo viene applicato? Nel caso del riso. La ringrazio. Il progetto Hermes ha l'obiettivo di dimostrare di fare quello che viene definito un downstream service. Dimostriamo di poter fare dei prodotti di valore aggiunto, dei servizi di valore aggiunto, in questo caso in particolare per quello agricolo e per quello risicolo. E lei citava non solo l'Italia, infatti gli altri due paesi su cui facciamo questa sperimentazione sono Grecia e Spagna. In quest'ambito qui noi abbiamo due servizi, dicevo, uno regionale, cioè a dimostrare, dare alle autorità degli strumenti di supporto per il monitoraggio delle produzioni agricole, quindi di avere anche delle informazioni per completare dei loro bollettini e dare quindi informazioni di valore aggiunto agli agricoltori, ma alla comunità in generale, e invece di dettaglio alle aziende agricole. Stiamo sperimentando con alcune aziende agricole della l'omellina, dove proprio la fornitura di informazioni e il loro utilizzo per fare delle mappe di prescrizione, cioè ovvero delle mappe per la fertilizzazione differenziata. Okay. Alla fine di quello che cercavo di dire prima, di ottimizzare le risorse, sia quelle i costi, ma anche le rese agricole. Va bene, davvero buon lavoro Boschetti, a lei e al suo team. La ringrazio. E per oggi è tutto, Federico. Torniamo a raccontare le tecnologie del cibo e dell'alimentazione nella prossima puntata di Food Lab. A presto qui.